se potessi ritornare, lo farei con tutto il cuore e con te. Fatto un giorno con la vita, io devo pagarlo tormentandomi così. Amore mio, non piangere, qualcuno un giorno ci aiuterà. Se potessi ritornare, lo farei con tutto il cuore. Per tutta me.